Ed eccoci qua, buonasera a tutte e a tutti, benvenuti, benvenute. Questa qui è Radio Onda Rossa, questa qui è Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato, e oggi facciamo l'ultima puntata della stagione. Qui c'è il comandante Jacopo. Intanto però diamo qualche notiziola notevole. Intanto salutiamo chi ci ascolta dalla provincia di Viterbo. Oggi si dovrebbe essere acceso il DAB, oltre che a Terni, che salutiamo, anche nella provincia di Viterbo, e quindi Radio Onda Rossa trasmette sia sugli 87.9 in modulazione di frequenza FM nella zona di Roma, ma trasmette anche attraverso il DAB, cioè Digital Audio Broadcasting, su nella zona della provincia di Terni e da oggi nella provincia di Viterbo. Quindi grazie a tutti e a tutti quelli che ci ascoltano da queste nuove località che raggiungiamo. Siamo prima di raggiungere l'intero mondo, che comunque lo raggiungiamo attraverso il sito ondarossa.info, dove ci si può ascoltare in streaming in tutto il mondo proprio da ondarossa.info. inoltre, se è bene ricordarlo, è possibile trovare tutte le modalità, in particolare il radioabbonamento, per sostenere le trasmissioni di Radio Onda Rossa, che trasmette da 47 anni senza pubblicità e senza padroni da queste frequenze, dalle sede di Via dei Volsci. Quindi oltre a stipulare un radioabbonamento per consentirci di raggiungere la cifra necessaria al mantenimento, purtroppo sempre più costoso, della radio, è possibile anche finanziare le nostre attività in altri modi. Uno dei tanti è venire alle nostre iniziative, sottoscrivere per la radio. Le altre modalità sono anche quella di passare negli studi di Radio Onda Rossa e comunque finanziarsi attraverso bonifici, conti correnti. Basta che andate sul sito e trovate il modo. Intanto oggi affrontiamo questa nuova trasmissione, che è stata già annunciata, è l'ultima della, diciamo, della stagione 2023-2024 di Libera Scienza e Libero Stato. La settimana scorsa abbiamo trasmesso l'ultima puntata di Antropologica con Miriam, che salutiamo, e oggi invece trasmettiamo l'ultima di Libera Scienza e Libero Stato. Come annunciato, è una trasmissione particolare, no? È vero, comandante Jacopo? Sì, è molto particolare, perché abbiamo un ospite d'eccezione e parliamo anche, come abbiamo annunciato, cioè due volte, perché quindi deve essere dobbiamo fare una bella trasmissione, visto quanto l'abbiamo annunciato. Siamo carichi di attese qua, soprattutto da chi ci ascolta, immagino, soprattutto dagli affezionatissimi. Parleremo appunto di il grande fisico e matematico Ettore Majorana e della sua scomparsa, e lo facciamo con un ospite, diciamo, d'eccezione proprio. E io lo presenterei subito, perché sì, perché tanto oggi facciamo proprio una classica trasmissione da talk radio, cioè chiacchieriamo in libertà, come sì, ci perché viene. Perché prima di venire qui abbiamo fatto una lunga chiacchierata col nostro ospite, abbiamo bevuto, è stata molto interessante, e quindi non vediamo l'ora di rendervi noto anche gli argomenti di questa chiacchierata, senza troppo formalizzarci sugli aspetti, diciamo, storico-accademici, che tutti poi possono leggere, ma andare proprio a sviscerare un po' in maniera diciamo originale, io spero che sia originale questa trasmissione, sulla figura di questo grande scienziato e anche della sua scomparsa, di cui se ne sono dette in questi ultimi, diciamo, quasi 100 anni, perché Ettore Majorana scompare il 26 marzo del 1938, quindi quasi 100 anni di lucubrazioni, di teorie sulla scomparsa. Lo facciamo qui in studio con Ettore Majorana. Ora, non ecco, è uno scherzo. Non è uno scherzo, scherzando. Buonasera. Ecco, esiste veramente. Ecco, non è venuto dall'aldilà, ma Ettore Majorana. Ecco, Ettore Majorana è il, lo presento io, è direttamente il nipote, cioè il padre era il fratello dello scienziato Ettore Majorana. Lui stesso, Ettore Majorana, è professore ordinario alla Sapienza, insegna Experimental Gravitation. Quando ci siamo conosciuti, ecco, questo neanche lo sapevo, errore mio, ma perché abbiamo fatto già una trasmissione con Ettore Maiorana. Qua, all'inizio, quando incominciamo questa avventura di questa trasmissione, parlando appunto perché si era appena scoperto i primi segnali delle onde gravitazionali, ed era stato fatto, appunto abbiamo rifatto una puntata ultimamente riaggiornando un po' quello che qual è lo stato dell'arte odierno di queste onde gravitazionali, e Ettore era venuto in radio proprio a parlarci di questa importantissima scoperta, perché Ettore prima era ricercatore degli NFN e sta tuttora, penso, si occupi della sempre appunto dello stesso argomento, con l'antenna gravitazionale Virgo. Questa sera parleremo, poi l'anno prossimo ci ritorneremo sopra, perché è un argomento assolutamente interessante questo delle onde gravitazionali, perché apre orizzonti immensi di conoscenza, la fisica multimessaggera, come abbiamo discusso, quindi orizzonti enormi. Ma stasera parliamo invece proprio di Ettore Maiorana. Appunto, Ettore Maiorana era un fisico, faccio un piccolo preambolo così, era uno scienziato famoso perché anche soprattutto entra nel gruppo dei ragazzi di Via Panisperna, quindi questo gruppo di fisica che rivoluzionò la fisica nucleare nei primi anni, dal 1920 fino a quando nel 1938 si disgregò questo gruppo grazie tra virgolette alle leggi razziali promulgate da Mussolini, in cui tantissimi, tra cui anche Enrico Fermi, non essendo ebreo ma la moglie era ebrea, furono costretti a emigrare, lo stesso Segre, quindi si disgregò questo gruppo, Ponte Corvo. Facciamo pure una puntata su Ponte Corvo, bellissima l'impresa di Ponte Corvo, ma questo è tutto un altro paio di mani. Scappò in Russia che in Unione Sovietica all'epoca, invece di andare negli Stati Uniti. Quindi questo grande gruppo, pionieri della fisica nucleare, quindi capeggiati, coordinati da Enrico Fermi, premio Nobel, c'era anche appunto Ettore Maiorana, su cui gli studi di Maiorana, grande teorica, si dice, anzi storia nota, che fosse anche più bravo di Fermi, soprattutto nella matematica. Fermi lo riconosce, Fermi addirittura, quando gli chiesero dopo la scomparsa di parlare dietro, dice: era un genio assoluto, non lo ritroverete mai. Ecco, in buoni soldoni disse questo Ettore Maiorana. Fermi lo paragonò a Galileo Agnew: ci sono i geni, ci sono le persone molto brave in fisica, quelli che eccellono, poi ci sono i geni che cambiano la storia della fisica, come Galileo e Newton. E qui mi permetto di, anche Sciascia lo dice, Fermi forse, chissà perché, non citò Einstein, che era pure vivente all'epoca, però comunque effettivamente una mancanza secondo me, ma secondo comunque me. Ettore Maiorana fu paragonato da Fermi a Galileo e Newton. Gli studi di Maiorana a livello scientifico sono tuttora oggetto di ricerca pionieristica d'avanguardia nel campo della fisica, soprattutto per le nuove teorie sulla fisica delle particelle elementari. Adesso non entriamo in particolare, perché sono cose anche molto molto difficili, e soprattutto difficili da un punto di vista proprio di fisica teorica. Per esempio, il fermione di Maiorana sicuramente arrivarono gli stessi risultati, ma poi per una questione un po' di ritrosia, un po' proprio per la stessa attitudine di Maiorana, non pubblicò la teoria che poi passa sotto il nome della teoria di Heisenberg sull'interazione neutrone-protone, quella che è un caposaldo della fisica nucleare. Però di Ettore Maiorana, appunto, questi studi che fece, soprattutto quello sui fermioni, aprono, ultimamente appunto è stato fatto, parlavamo adesso prima durante l'aperitivo, che è stato fatto un esperimento ultimamente nel 2009-2010, in cui viene quasi, diciamo così, confermata la teoria di Maiorana sui fermioni, quindi sulla struttura della materia antimateria, diciamo, utilizzando così delle quasi particelle. Possibile costruire la rappresentazione quantistica tramite funzione d'onda di una possibile particella di Maiorana, avente quindi la proprietà di essere autosimmetrica, particella simmetrica con la sua antiparticella. Naturalmente questa non è la scoperta del neutrino di Maiorana, l'osservazione diretta del neutrino di Maiorana, che potrebbe essere possibile grazie ad esperimenti tipo cuore, questi esperimenti che si cerca di fare ma che ancora non hanno la sensibilità dovuta nel mondo. Nel mondo Maiorana, ci sono svariati esperimenti, uno si chiama proprio Maiorana, poi ce ne sono diversi, vengono fatti, no, sui fermioni di Maiorana. Gerda, Nemo 3. Gerda, Nemo, sì. Nemo 3, sì. Sono un po' sparsi per il mondo. Beh, no? Si tratta di osservare in quel caso un effetto che si chiama double beta neutrinoless decay, in cui due decadimenti beta avvengono in serie senza l'emissione di la comparsa di un neutrino, già che il neutrino e il suo antineutrino sono la stessa particella, e quindi il primo viene riassorbito dalla seconda, dal secondo decadimento. Naturalmente è un evento estremamente improbabile, nel senso molto raro, serve lunghissimi tempi di osservazione, un fondo di rumore bassissimo, ed è per questo che bisognerà lavorare molto perché si abbia la possibilità di osservarlo, insomma. Ma sì, questo perché puntano molto, perché anche questo implica ha tantissime implicazioni, anche per esempio si presuppone sullo studio della materia oscura, per esempio. Naturalmente, sulla, certo, materia oscura, che è tutto un dibattito acceso nel campo della fisica di frontiera, proprio sul fatto che noi conosciamo una piccola frazione, cioè la materia visibile è semplicemente una piccola percentuale di ciò che invece l'universo è pervaso, cioè questa materia oscura, e poi anche l'energia oscura. Uno dei modelli si riferisce alla presenza portante nell'universo di queste particelle previste nell'ambito della teoria di Majorana. Di Majorana. Majorana ovviamente si trova proprio a cavallo di un periodo storico, diciamo, complicatissimo, anzi addirittura lui va proprio a intraprendere un percorso di ricerca con Heisenberg all'epoca a Lipsia, proprio nel 1933, e si trova a Lipsia proprio durante l'ascesa del nazismo, proprio quando Hitler prende il potere. Tramite Majorana, io leggendo poi un po' la vita e soprattutto anche leggendo un po' anche quello che dice Sciascia della figura, perché noi abbiamo parlato anche molto della storia della bomba atomica da questo punto di vista, tramite le testimonianze che Sciascia utilizza di Majorana quando scrive le lettere parlando di Heisenberg, facendo proprio un po' anche io le tesi un po' di Majorana, si evince che Heisenberg non era questo grande guerrafondaio come si vuole far credere, ma soprattutto che la Germania era molto distante da quello che era lo sviluppo di un progetto di bomba atomica. E per questo, per esempio, serve anche a chiarire un po' meglio quegli aspetti che fanno parte della storia della bomba atomica, ecco, quelle teorie per cui si dice che era assolutamente mandatorio fare una bomba atomica per sconfiggere i nazisti, quando aspetta direi un elemento vi richiamo all'ordine, perché come fanno tutti i fisici sì. Siete partiti per la tangente, e quindi chi ascolta non sa, che magari non sa neanche chi è Majorana o ne sa soltanto la parte, diciamo, più romanzata, si sta perdendo. Questo sta succedendo a me, quindi immagino pure a chi ci ascolta. Allora riavvolgiamo un attimo il nastro prima di arrivare, perché già da Heisenberg, Lipsia, il 29, così Majorana nasce nel 1906 e scompare nel 38, quindi diciamo la vicenda si sviluppa in 32 anni di vita. In questi 32 anni lui arriva, siciliano, arriva a Roma, no? Se non sbaglio, corregge te, arriva a Roma, si iscrive prima a ingegneria per fare l'università. Va a Roma già per la scuola? Già per per il liceo? Per la scuola elementare. Ah, quindi si trasferisce a Roma, sì, con le... Da piccolo era interno a scuola a Roma, sì. E qui piano piano comunque si iscrive alla fine a ingegneria e alla fine poi alla fine raggiunge, sì, raggiunge fisica, attratto forse dal... Sì, raggiunge fisica perché un suo ex collega Emilio Segre, che ha notato, è suo amico, e sa quanto lui è bravo, lo stima molto, e è passato prima lui, il Segre, a fisica, e quindi ha reclamizzato molto, tra l'altro, nel gruppo questa sua amicizia di ingegneria, questo suo amico eccezionale Ettore Majorana, e al Majorana ha reclamizzato molto questa fisica come un campo intellettuale a cui dedicarsi, in cui lui è evidentemente portato, e quindi dice lascia stare le macchine, viene a studiare la fisica fondamentale da noi. E quindi lui, no? Arriva lì e con la sua peculiarità, perché era un personaggio che loro, che gli altri definiscono sì geniale, ma anche un po' curioso per alcuni aspetti, dal punto di vista, diciamo, della vita sociale, se penso vogliamo. E così, così sembra. E comunque comincia a collaborare con il gruppo di Fermi e con il gruppo di Epany Sperna. Ed è in quell'ambito lì che va all'Ipsia, giusto, comandante? Sì, dopo. Sul microfono. Sì, scusa, no, volevo. Dopo 7 anni. Sì, dopo un po', quindi sì, lui intraprende questo percorso con Enrico Fermi. Si laurea, certo, si laurea, collabora, frequenta l'istituto, collabora appunto a tutti gli esperimenti ormai famosi del gruppo di Via Epany Sperna, e poi sotto consiglio appunto di Fermi e del gruppo decide di andare a fare un soggiorno appunto a Lipsia nel 1983, prendendo rapporti, facendo ricerca con Heisenberg. Heisenberg è famoso per la teoria di Heisenberg, che dice. Sì, è famoso per tantissime cose, tra cui però, hai più è famoso per il principio di indeterminazione di Heisenberg, ma diciamo che è stato uno dei maggiori, proprio delle maggiori figure scienziate che sviluppò appunto la teoria quantistica della materia. Insomma. Sì, interpretazione probabilistica. Della fisica quantistica, diciamo, di quegli anni. La scuola di Heisenberg era fondamentale perché introduceva l'uso della probabilità di trovare una particella, come se, trattando questa probabilità come se questa fosse davvero un oggetto fisico, cioè la probabilità diventa un oggetto. La probabilità di avere una particella a quella velocità non è un semplice numero, ma è una probabilità di essere, ontologizza la probabilità in qualche modo. Sono gli anni in cui, in sostanza, la teoria della materia, poi di come è fatta, sì, dei mattoncini della materia, degli altri, si afferma e viene a dire. Ma si afferma moltissimo. Esatto. Tant'è vero che in sostanza il gruppo di Heisenberg produce un formalismo matematico capace di prevedere risultati di esperimenti in modo così accurato che il gruppo di Heisenberg, quella scuola comincia a intravedere in qualche modo, tra virgolette, la fine della fisica, o meglio, abbiamo tutti gli strumenti per descrivere tutta la fisica elementare delle particelle diciamo più fondamentale. Naturalmente così non era, c'erano dei problemi anche di carattere interpretativo vivaci, sottostanti, che Einstein aveva colto, tra l'altro, e che sono in qualche modo tuttora in essere. E però, insomma, era un tale successo questo della meccanica quantistica, della sua interpretazione probabilistica, del marchingegno, fatemi dire, dei meccanismi matematici, perché poi alla fine sono cose tecniche, no? Che si potevano usare per prevedere risultati. Insomma, questo era un ambiente super effervescente che non poteva altro che attrarre dei scienziati giovani come Majorana, che va a Lipsia, no? Nel 33, l'avete detto, e lì conosce, si trova in un cenacolo di molto vivace, di scienza, di apertura, penso parecchio più aperto forse di quello che aveva lasciato a Roma, per certi versi. C'è una testimonianza di Weizsäcker, che era un famoso fisico, nonché fratello del politico Weizsäcker, importantissimo in Germania, che racconta di come questo giovane incerto, con un tedesco ancora traballante, si alzasse dal suo sedia e andasse alla lavagna a confrontarsi, a parlare col professore, che era Heisenberg, così, pariteticamente. Loro erano molto impressionati da questa cosa. Sì, questo volevo riportare un per quanto era, per far rendere conto a chi ci ascolta di quanto era geniale Ettore Majorana, ma lo faceva con una estrema semplicità. Estrema semplicità. Com'era pure poi schivo rispetto proprio alla volontà di apparire da questo punto di vista, che lo facesse solo come proprio per amor di scienza, per un lavoro intellettuale delle cose, un piacere proprio, perché il cervello gli diceva che doveva fare così in un certo senso, senza pensare poi a retroscena, alla fama, alla carriera, quello che oggi, no? Alle pubblicazioni, come oggi è la rincorsa alle pubblicazioni, è l'esatto opposto. Cita, procedi. Sì, sì, cito. Cito appunto il racconto di Amaldi, che racconta quando arriva Majorana al primo appuntamento a conoscere Enrico Fermi, no? Va nello studio e dice che Fermi lavorava allora al modello statistico che prese in seguito il nome di modello di Thomas Fermi. Il discorso con Majorana cadde subito sulle ricerche in corso all'istituto e Fermi espose rapidamente le linee generali del modello e mostrò a Majorana gli estratti dei suoi recenti lavori sull'argomento e in particolare la tabella in cui erano raccolti i valori numerici del cosiddetto potenziale universale di Fermi. Majorana ascoltò con interesse e, dopo aver chiesto qualche chiarimento, se ne andò senza manifestare i suoi pensieri e le sue intenzioni. Il giorno dopo, nella tarda mattinata, si presentò di nuovo all'istituto, entrò diretto nello studio di Fermi e gli chiese, senza alcun preambolo, di vedere la tabella che era stata posta sotto gli occhi per pochi istanti il giorno prima. Avutala in mano, estrasse dalla tasca un fogliolino su cui era scritto un'analoga tabella da lui calcolata a casa nelle ultime 24 ore, trasformando, secondo quanto ricorda Segre, l'equazione del secondo ordine non lineare di Thomas Fermi in un'equazione di Riccati, che poi aveva integrato numericamente. Confrontò le due tabelle e, avendo constatato che erano in pieno accordo fra loro, disse che la tabella di Fermi andava bene. Sì, ora è vero, penso che sia vero questo episodio, un aneddoto, ma penso che sia vero. Naturalmente, quando si dice che non volesse apparire, che fosse schivo, eccetera, sì, sicuramente era una persona schiva, però era altamente consapevole di quello che poteva fare, di quello che poteva capire da solo. E l'aspetto più interessante di questa vicenda è che lui non dice, non confessa minimamente che metodo ha usato per fornire quei risultati. Lui in sostanza controlla i risultati di Fermi e dice che sono giusti, non è che controlla i suoi, lasciando cuocere, friggere in questo olio bollente tutti gli astanti che pensano, avendo fatto dei calcoli con una macchinetta ricorsiva a mano, con un calcolatore, per giorni, pensano tutti gli astanti che lui sia semplicemente un calcolatore umano mostruoso, mentre invece ciò che afferma Segre quasi correttamente, e che non avevano capito loro al momento, è che lui ha semplificato quella equazione e la risolve, come si dice noi, a botto, con pochissimi calcoli, perché conosce, come tutti i fisici, qual è il range di validità in cui può applicare certi numeri nella rappresentazione semplificata di quell'equazione e come deve fare per risolverla e dare i numeri giusti a compilare la tabella. Ma non dice, lascia tutti cuocere nel brodo, quindi schivo sì, ma un po' di teatro c'è, ma col senso, infatti stava dicendo col senso della scena, ha capito con chi ha a che fare e vuole dare una lieve bastonata sulla testa. Questa non è, a detta sempre di Sciascia, io mi riferisco, cito Sciascia perché comunque penso questa è una che mia sia interpretazione. Vabbè, ci sta, infatti abbiamo chiamato apposta per le tue interpretazioni, è teatrale comunque. Non è solo non è solo questa come da bot, ma pure quando partecipo al concorso a cattedra, però questo ne parliamo a quando Roma volete. E poi appunto invece per motivi politici, diciamo così, prende la cattedra a Napoli, però ne parliamo dopo, ne parliamo dopo se volete, sì. Mandiamo uno stacco musicale perché penso che abbiamo detto tante cose, tiriamo un respiro. Cada día que me enamoro. De la vecina del cuarto, de la panadera, de la que vende los billetes en el metro, de la barrendera. Cada día que me enamoro. Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti de carnicería. Viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Tú vives en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Y tú, y tú, y tú, viva tú. Tú vives en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo. Cada día que me enamoro. Esto me representa. Es así. Pásame el WAP que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro. Viva tú, viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva la Marelú, viva tú. Viva tú, y tú, y tú, y tú. Cada día que me enamoro. Viva tú, y tú, y tú, viva tú, viva tú. Viva tú. Siamo ritornati in diretta su Radio Onda Rossa 87.9. Grazie a chi ci ascolta, grazie anche. Abbiamo ascoltato l'ultimo disco di Manu Chao, che è molto che a me piace tanto, che dice viva tu, dedicato a tutti i suoi vicini, a tutta la comunità che lo circonda, e quindi vale pure per noi, tutta la comunità innamorata, il vicino di sopra, i vicini di là che stanno in redazione, e così viva, viva tutti. E ringrazio pure l'ascoltatore che ci ha telefonato, che ci ha detto che il vero salto spazio-temporale potrebbe essere un esperimento veramente che dovremmo fare, potrebbe essere far sentire questa trasmissione di oggi a un ascoltatore del 1994 di Radio Onda Rossa, cioè quindi trovare un ascoltatore fermo al 1994, un po' come faceva chi era Fassari, che si svegliava sì, dopo 30 anni, e fargli sentire quindi un ascoltatore del 94, addirittura, perché no, dell'84, lui ha detto del 94, del 2004, che invece accede a una trasmissione, all'ascolto dalle frequenze della Radio Onda Rossa di questo tipo qua, e quello sarebbe l'esperimento. L'ascoltatore non ci ha detto la sua opinione e quindi lo dovremmo praticare prima o poi. Forse un'opinione negativa? No, non credo, anzi no, positiva, perché ha detto apprezza moltissimo. Ah, quello del 94 non lo so, chi ci ascolta ci apprezza apprezza pure questo tentativo di fare la fisica alla radio, di tutti gli altri argomenti che affrontiamo a Entropia Massima, e quindi lo ringraziamo soprattutto per l'ascolto e eventualmente per la pazienza. Invece l'ascoltatore del 94 dovremmo trovare qualcuno congelato e decongelato. Siamo noi stessi poi vediamo. Comunque torniamo all'argomento. Eravamo arrivati al percorso da grande di Ettore Majorana nel gruppo di fisica qui e in Germania. Io posso premettere, devo premettere che non sono uno storico della fisica, naturalmente, però qualche volta, raramente, mi sono trovato a parlare di questa questione di Majorana, molto spesso chiamato in causa da chi vuole parlare della scomparsa di Majorana, ma invece la cosa importante per le persone che vivono è la parte in cui sono vivi. Ok? Nel caso di Majorana la parte in cui si è parlato di più di Majorana è quella in cui lui non c'era, paradossalmente, insomma, in cui lui non ha nessuna, di cui, su cui lui non ha nessun ruolo, nessuna responsabilità al momento che non c'era. Ebbene, sì, abbiamo detto che facciamo questo excursus così molto informale. Nel gruppo di Fermi Majorana si occupa di questioni ovviamente di fisica teorica, ok? È un esperto di teoria dei gruppi che poi diventa la base della fisica delle alte energie, della fisica fondamentale, che non piace troppo a Fermi ma che piace moltissimo a lui. Quei 6 anni di differenza fanno già un po', anche un po' di gap culturale. Si interessa di tutti i piccoli problemi che gli pongono, da formalizzare, da, su cui trovare una soluzione elegante, generale, okay? Che possono avere quelli suoi colleghi sperimentali del gruppo, però sta, devo dire, un po' all'atere, non è un fisico sperimentale. Beh, anche Gentile non è un fisico sperimentale, Gentile si occupa anche lui di fisica teorica, diciamo sta un po' all'atere per tutto il tempo, sta un po' a giudicare, spesso racconta nel bellissimo libro di Giulio Maltese, che è forse il libro più bello in assoluto, Il Papa e l'Inquisitore, Giulio Maltese, un fisico ahimè scomparso che ha scritto su Fermi, ma un esperto di Fermi molto, e che a un certo punto ha scritto un bellissimo libro in cui ha inquadrato la personalità di Majorana come complementare a quella di Fermi. Trovo assolutamente corretta questa impostazione, una lunga vita di scienziato, una brevissima vita di scienziato, come una cometa che passa così e illumina, è una cultura proprio diversa, utilissima a Fermi, che tutte le mattine verso tarda mattinata fanno una riunione con Majorana, ok? E nel primo pomeriggio incontra invece i suoi allievi, collaboratori giovani del gruppo. Quindi Fermi si confronta usualmente, secondo i racconti di tutti, raccontati poi riportati da Maltese, parla prima con Majorana nel primo pomeriggio, invece parla con gli altri. Voi capite che questa situazione non è super piacevole per dei collaboratori, ok? Perché chiaramente si capisce che lui è un interlocutore assolutamente privilegiato e che può fornire le idee o le interpretazioni a proposito degli esperimenti, dei dati, eccetera. Quindi il teorico viene quasi sempre prima dello sperimentale. Poi, come diceva Maldi, bisogna ascoltare il teorico, fare gli esperimenti, lasciar perdere, dimenticarsene, perché il vero lavoro duro è quello di fare gli esperimenti, ma le idee vengono sempre prima. Dopo questo periodo Majorana si reca, come sapete, è stato citato, a Lipsia, dove conosce un ambiente molto aperto, molto bello, bellissimo, collaborazione con Heisenberg, che lui vive veramente come una persona, un amico, ecco, un grande elargitore di conoscenza, di empatia, di afflato intellettuale. Molto bello, secondo me la relazione con Heisenberg è stupenda, anche con il gruppo. Poi rientra e ha un periodo un po' fosco, devo dire, dopo il rientro, e questo è stato citato da molti. Una volta ho inteso a una conferenza a Maldi riportare, ero giovane, che Majorana era stato un anno, secondo lui, a casa, quasi sempre a casa. Io ho chiesto alla sorella di Majorana, mia zia Maria, con cui ho vissuto per tantissimi anni, una sorta di madre per me, ecco, ho chiesto: ma è vero che stesse a casa? Perché a casa nostra non si parlava mai di Majorana, devo dire, proprio mai. E lei ha chiuso gli occhi, ha socchiuso, si è concentrata e ha risposto: sì, sa che era l'anno tal dei tali, tranquillamente. Erano altri tempi, non c'era Marta De Filippi. Nelle famiglie ognuno faceva la propria vita, si era tremendamente soli con se stessi, ok? Ci si confrontava, ci si amava, ci si osservava, ma con riserbo, d'accordo? Effettivamente Majorana stette a casa un anno, quasi per un anno intero. E penso che dopo quell'anno, così la cronaca vuole, quello che dice anche Sciascia, che furono appunto sempre i colleghi amici a convincerlo a partecipare al concorso di fisica teorica, che era una cattedra di fisica teorica, sì, forse la Sapienza. Sì, sì, era una cattedra di fisica teorica, ok. Anche qui è una storia. È una storia complicata. Erano già destinati. È passato posti, qualche anno. No? Erano sì, già assegnati. Erano come... passato qualche anno e Majorana si trova a fare. Viene fuori un concorso, ok? E Majorana decide all'ultimo minuto di partecipare a questo concorso. A questo concorso partecipava anche un suo collega, da lui stimato, Gentile, che era naturalmente figlio di una persona importantissima. Con cui lui era in ottimi rapporti, per la verità, però insomma non era stato considerato nel pool dei partecipanti. Erano al tre per la precisione, il primo doveva okay. essere Giancarlo Wick, Wick e poi yes. Giulio Racca. Racca, si pronuncia Racca. Giulio Racca è Gentile. Majorana decide all'ultimo istante: ah bene, c'è un concorso, ma perché no, io posso partecipare. Quindi questa ritrosia anche in questo caso viene messa da parte, okay? Decide di pubblicare un lavoro che aveva sicuramente in Canada un pezzo, quel lavoro stupendo sulla particella simmetrica con la propria antiparticella, bellissimo. Decide di pubblicare questo lavoro e che esce a ridosso del concorso. Per la verità esiste solo il preprint prima del concorso, ok? Poi esce in pubblicazione appena dopo. Però Fermi pensa giustamente alla fine di chi vuole vedere delle contrapposizioni con Fermi, secondo me globalmente sbaglia. C'era un'eccezionale stima tra i due, benché si riconoscesse la differente, assolutamente differente impostazione, anche carattere, cultura, eccetera, però c'era una stima totale. Fermi pensa di agevolare Majorana perché con lui poteva farlo, richiedendo una cattedra per lui, per chiara fama, insomma. Per chiara fama non a Roma, ma a Napoli. Ma a Napoli, dove, attenzione, a Napoli non c'era la fisica teorica ancora. Quindi Majorana si trova a Napoli ad aprire, a fondare un campo, quello della fisica teorica, lì assente, ok? Quindi un compito abbastanza duro. Sì, qui per rendere conto chi ci ascolta, qui si sta parlando di fisica che all'epoca era di frontiera, quindi la prima cattedra di fisica teorica in Italia fu istituita proprio ad hoc per Enrico Fermi, certo. Mi pare, quindi non è che ce n'erano, quindi non è che si parlava nelle altre parti d'Italia, non era argomento noto, consolidato, quindi certo. Era molto di frontiera, quindi di frontiera, immaginate sì. Pure quei pochi studenti che c'erano appunto a Napoli, che a un certo punto arriva ma io il penso professor che Mario Verana. Sì. Io penso che Majorana è stato rappresentato come tremebondo di fronte all'incarico di farsi capire da studenti, non di fisica teorica, però io non credo che quella potesse essere davvero una sua motivo di tristezza, di depressione o altro. Lo stesso Einstein non era uno che amasse troppo l'insegnamento, eppure Einstein era un illuminato del Signore, diciamo. Mi piace vederlo così. Ecco, certamente era una grossa impresa quella di andare a Napoli, ma non credo che lui l'avesse presa male come destinazione. Non dimentichiamo che Majorana aveva cercato di aveva ottenuto la libera docenza senza poi esercitare il corso per assenza di studenti a Roma, con un programma di elettrodinamica quantistica, quando questa materia non esisteva. E consideriamo che Segre per elettrodinamica, per renderci conto, elettrodinamica quantistica prende piede negli anni 60, insomma, uno dei principali è Feynman, penso. Non so se è chiaro il livello. Chiaramente non vennero studenti. Questo probabilmente procurò una certa frustrazione, forse. Vabbè, scherzo, però insomma, voglio dire semplicemente che si tratta di un ricercatore avanzato che vuole affermarsi, d'accordo, e che non si ferma di fronte alla sfida di un concorso, che poi va a Napoli, poi probabilmente succede qualcosa per cui decide. Infatti, adesso diciamo gli anni, no? Questa cosa qui, tutto quello che abbiamo raccontato siamo è successo fino a te, siamo arrivati al 37 quando va a Napoli e al gennaio del 38 quando comincia il corso, cioè, pochi mesi. Majorana ha 31 anni, ecco, quindi diventa professore di, ecco, anche il rovesciamento, no? Anche rispetto al fatto che la fisica non esisteva e quindi chi la faceva erano i giovani, cioè non esiste, nel senso, doveva essere per forza la parte giovane, l'accesso alla un bel challenge. E comunque la cosa interessante è che sono passati 42 minuti e forse siamo l'unica trasmissione della storia delle trasmissioni su Majorana che ancora non abbiamo detto niente sulla scomparsa, rispondendo a quello che al dettame che ci eravamo dati all'inizio, cioè dicendo che insomma è quello che avevi detto tu all'inizio, che giustamente le persone tutte le persone contano per quello che fanno quando stanno in vita, di solito, sì. E invece in questo strano caso pare che quello che succede fra due mesi rispetto alla nostra storia è l'intero che racconta Majorana. Invece in realtà abbiamo scoperto che era un personaggio sicuramente complesso, come forse siete tutti fisici, scherzo, un personaggio complesso con le sue difficoltà, con le sue fatiche, pure appunto l'empatia col gruppo tedesco. Mi pare che proprio Sciascia dice che si era trovato bene con Heisenberg, perché Heisenberg appunto ampliava, non si limitava soltanto alla fisica, secondo Sciascia ovviamente, ma era un filosofo, anche Heisenberg lo definisce Heisenberg aveva delle ambizioni di filosofo pure, idealista, quindi un filosofo idealista poi, probabilmente sì, ma involontariamente non era un hegeliano puro, diciamo, no? Vabbè, ma all'epoca chi faceva quelle scoperte, chi si occupava di quei campi della fisica quantistica, era difficile era successo che la fisica inquadrare era la percolata nel, la filosofia era percolata nella fisica per ragioni diciamo che gli sviluppi, volevo dire che gli sviluppi così veloci, accelerati di tutto quello che fu in quegli anni la fisica atomica, la fisica quantistica, non permisero, diciamo così, alla filosofia, all'epistemologia di inquadrare da un punto di vista filosofico epistemologico bene tutto ciò che si stava presentando, prospettando a livello scientifico, senza considerare questo la fisica quantistica, senza considerare dopo la relatività di Einstein, ma neanche adesso. Sì. Considerando l'altro filone relativistico. Certo. Era un periodo sicuramente di scoperta, appunto, della nascita della fisica moderna, poi contemporaneamente politicamente pure turbolento, beh, inutile ricordarlo. Quindi se volete facciamo un'ulteriore piccola pausa e finalmente affrontiamo il tema che affrontano tutti, che però dobbiamo per forza affrontare, della scomparsa di Majorana e che abbiamo detto, però l'affronteremo in una maniera molto originale, molto originale, abbiamo detto appunto che diventa l'esempio paradigmatico della scomparsa. Se uno aspetta, questo lo aggiungo. Lo dico prima per chi ci ascolta: se uno aspetta chi l'ha visto, può anche cambiare frequenza. C'è chi l'ha visto, si ritrova su YouTube. Mettiamo una musichetta. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negro el presidente, el gobernador, negro el abogado y negro el doctor, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negra la azucena y negra la tiza, negra Blanca Nieve, negra Mona Lisa, compay. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negro fuera el día, negro fuera el sol, negra la mañana, negro el algodón, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negro fuera el papa y negro el ministro, los ángeles negros, negro Jesucristo, compay. Si Dios Eccoci qua. Stavamo chiacchierando amabilmente, lo possiamo anche dire, stavamo chiacchierando amabilmente del festival di Momo, che si è concluso a Tormarancia, quindi possiamo dire che sono amici e quindi gli possiamo fare la pubblicità retroattiva. Se non ci siete andati dovete aspettare un anno. Va bene, allora siamo arrivati al dunque. Passa. Cari ospiti, anzi caro ospite e caro comandante. Sì. Ho dato dell'ospite. Comunque siamo arrivati con questa cosa che la settimana scorsa eri ospite. Per ricapitolare, siamo arrivati che appunto Majorana accetta questa cattedra per chiara fama a Napoli di fisica teorica. A gennaio inizia le lezioni, 3 mesi di lezioni. A un certo punto lui cosa fa? Prende un traghetto il 26 di marzo, anzi il 25 penso, prende un traghetto per Palermo, Napoli-Palermo, scrivendo una lettera ai familiari sia al rettore, correggimi se sbaglio, della facoltà di Napoli, dicendo, la faccio breve, dicendo che lui andava via, anzi ai familiari dice preparatevi anche al lutto. Quindi nero su bianco c'era un'intenzione palese di Ettore Majorana di suicidarsi durante il viaggio col traghetto Roma-Palermo. Poi a un certo punto arriva a Palermo e subito dopo, appena arrivati a Palermo, rimando un telegramma a Carrelli, il rettore, dicendo in buona sostanza che non è riuscito a suicidarsi, che tornerà a Napoli ma che si congeda definitivamente dalle lezioni, dal ruolo di professore di fisica teorica, e si preoccupa di dire ai familiari che non è morto. Insomma, lui riprende e dice il giorno dopo tornerà a Napoli. Effettivamente, secondo le cronache, questo traghetto Palermo-Napoli di ritorno lo prende, scende a Napoli, poi il 26 di marzo Ettore Majorana non si vede più. La cosa interessante è che nella lettera fino a lì è giusto, no? Fino a qua è giusto. La cosa interessante, aggiungo a proposito del lutto, così è che in una delle lettere, nella lettera di non preoccupatevi a Carrelli, dice il mare mi ha rifiutato, insomma, e ritornerò domani, insomma, però il mare mi ha rifiutato, non portate il lutto, ecco. Ecco, adesso Ettore, prima di tutto dire che non è sicuro al 100% che sia sceso dal traghetto, benché la Tirrenia abbia confermato che il biglietto, allora si consegnava il biglietto scendendo dalla nave, dal traghetto, fosse stato consegnato effettivamente. Loro dicevano, ma non lo hanno mostrato, forse per non avere seccature, chi lo sa, uno potrebbe fare tante illazioni, ma qui noi dobbiamo fermarci ai fatti. Di fatto questo biglietto non fu consegnato, quindi non si è certi al 100% che lui sia sceso dalla nave. Però mi piacerebbe fare un passo indietro a quando era a Napoli, già che in quel periodo riceve una visita del fisico Occhialini, che viene da Sud America. Parliamo di un fisico, diciamo, famosissimo per le sue scoperte. Occhialini e Blackert hanno fatto una parte della scoperte fondamentali per la fisica di quegli anni, e Occhialini si trova a Napoli e va all'università, conosce Majorana, gli dice che ha letto i suoi lavori, sono molto interessanti, è molto contento di incontrarlo, e Majorana gli dice hai fatto appena in tempo, va bene? Occhialini rimane perplesso, però poi parla della sua situazione umana, anche una persona sensibile eccetera, e poi dice mi chiedo se la vita valga la pena di essere vissuta, e a volte ho dei pensieri molto brutti, e Majorana gli dice c'è chi lo dice e c'è chi lo fa. Ok, questa testimonianza non la cito a memoria, ero presente mentre Occhialini racconta questo alla sorella di Majorana, Maria, con cui vivevo nella stessa casa, e lei mi fa sentiamo insieme questa telefonata di Occhialini, che è molto malato, sta in ospedale, e dice dopo tanti anni mi devo liberare piangendo di questo ricordo terribile che ho, perché avrei potuto dire qualche cosa alla famiglia allora, quando poi ho saputo della scomparsa e della fine che ha fatto. Quindi in qualche modo, certo non era un bel periodo quello per Majorana, d'accordo? Per questo, diciamo, è una questione per cui quando mi si dice di ipotesi strane sulla scomparsa, sì, volontaria, fisica, quello che sia, beh, non era un bel periodo. Certe decisioni estreme costano e non possono essere usate come mercanzia da altro successivamente, dal consesso che rimane, ok? Per gli affari del consesso che rimane. Ecco, questo quindi è molto brutto. Comunque, a parte il discorso deprimente sulle conclusioni, che poi tra l'altro sarebbero in qualche modo ingiuste per tutti i personaggi che compiono la stessa scelta, ma che non sono degli intelligentoni, va bene, anche quelli vanno rispettati. Perché parlare di Majorana per una scelta che lui ha fatto solo perché era una persona intelligentissima? Io lo so perché se lo ha fatto Majorana, che era così intelligente, mi fa vibrare il sangue nelle vene, cosa dovrei fare io? Allora, cosa dovremmo fare noi? È sbagliato. Noi abbiamo la nostra vita, noi abbiamo la nostra felicità, i nostri dolori, che sono tutt'altro, però dobbiamo rispettare quelli di ciascuna delle persone che si trova ad attraversare un periodo difficile. Ciascuna, non solo i geni. No, certo, il tema delle espressioni che c'aveva, che alcune delle quali ricordano veramente effettivamente anche quest'ultima cosa che hai detto, della citazione di Occhialini, che ero presente, che no ricordano effettivamente delle frasi suicidiarie che mi è capitato di leggere e sentire nell'ambito della psichiatria, vabbè, insomma, tutt'altro, come come Grande Cocomero, insomma, non è che non abbiamo mai sentite, sì, come associazione di Grande Cocomero. E quindi effettivamente è curioso che poi di fronte a delle rappresentazioni abbastanza chiare di quello che potenzialmente poteva essere successo, potenzialmente, certo, potrebbe anche non averlo fatto, ma de facto, certo, quella è la situazione, che si sia creata di fatto un filone letterario investigativo, sì, sì, e anche, come hai detto tu giustamente, di affaristico, perché poi sì, alla fine può convenire, no? Hai ragione. Anzi, conviene in termini di fama, se non tu, di... Nella tua vita che fai? Una sorta di, come Matisse, lasci dei segni bellissimi, ok? Su un canvas gigantesco apri una finestra, ok? Dove tutti possono là dentro rappresentarsi, fare il loro personaggetto accanto al tuo, ammiccare, d'accordo? Chiamare Majorana Ettore, ok? Mettersi accanto a lui. Sono cose umane, normali, però noi le dobbiamo riconoscere. Questo è il nostro compito, il compito nostro è quello di osservare prima di tutto, riconoscere e mettere nelle caselle giuste. Riguardo al perché di questa scelta non ci sono informazioni, però una volta, e noi non parlavamo mai a casa di questo personaggio, perché chiaramente è il dolore in qualsiasi famiglia, provate a immaginare nella vostra famiglia cosa sarebbe un dolore del genere, non è una cosa, cioè io sono normale perché rientro nella normalità, perché qualunque genio ha una quantità di parenti e discendenti normali o subnormali addirittura, quindi io rientro nella normalità. Il caso strano era quello suo, d'accordo? Allora, di fronte a questa scomparsa, la scelta, tremare di fronte a una scelta, sono cose grosse. Tu organizzi tutto un piano per scomparire, d'accordo? Cosa fai? Per un evento fortuito, non puoi metterlo a segno perché, che ne so, c'è un vicino, uno che ti guarda, qualcuno, non riesci, succede qualcosa di imprevedibile, allora non lo metti in atto. Frustrato da questo, rispondi e dici vabbè, non lo faccio, però mi sento un verme per questa cosa che ho pensato, mi merito di uscire di scena. Che fai poi? Ti incammini per lo stesso percorso, passi dallo stesso punto dello spazio delle fasi, nella stessa situazione, identica a quella dell'inizio, magari favorevole a farlo. Questa rappresentazione mi fu riportata dalla sorella, va bene? Cioè da questa mia zia Majorana, Maria Majorana, con le lacrime agli occhi. Lei poveretta non sapeva niente, perché noi non sappiamo niente, tutti sanno come è scomparso Majorana tranne noi, però effettivamente lei mi disse così, è come quando ti portano dei pasticcini, mettiamola a ridere, e tu non sai che scegliere. Va bene, poi invece apri il frigorifero per prenderne uno. Sono sempre quelli. Eh certo, il,